con Daria Veronese, autrice e regista dello spettacolo Il dono di Hitler, Terezin 1941-1945. Daria, benvenuta. Che Grazie. storia è questa? Allora, questa è una storia vera, è tratta da una storia vera, ed è la storia in modo specifico dell'allestimento del Requiem di Verdi all'interno di Terezin. Terezin era un ghetto, una città ghetto vicino a Praga, 50 km da Praga, dove vennero raccolti moltissimi artisti dell'Europa dell'Est e moltissimi bambini. Quindi venivano incoraggiate delle rappresentazioni teatrali, allestimenti di concerti e i bambini seguivano delle lezioni di canto, di disegno. Infatti sono rimaste molte poesie e disegni, alcune poesie sono citate anche nello spettacolo, proprio che hanno scritto bambini da fino ai 14 anni, sui 10-14 anni, molti erano anche piccolissimi. E venne fatto anche un documentario per la Croce Rossa. Quindi era allestita una specie di setta all'interno della città, ovviamente tutto finto, che aiutò la propaganda nazista a distogliere l'attenzione su quello che avveniva nei lager. Insomma. Senti, di quante persone stiamo parlando? Stiamo parlando di calcoliamo che la cifra stimata delle persone vittime di Terezin di 140.000. La cifra non è precisissima, più di 140.000, anche perché le deportazioni venivano effettuate da Auschwitz e non c'erano ovviamente camere a gas a Terezin, la gente moriva per malattia o per altre cose, e c'erano periodicamente delle deportazioni ad Auschwitz. Infatti moltissimi esiti di queste opere erano la deportazione ad Auschwitz. Su quale documentazione hai costruito il tuo testo? Ho preso una documentazione storica, è tratto da una storia, da una vecchia cosa che ho trovato. Questi sono tutti personaggi realmente esistiti, anche gli artisti che vengono citati sono realmente esistiti, e quindi ho fatto poi una sorta di raccolta anche di documentazioni storiche. Infatti la prima parte è sostanzialmente una spiegazione di quello che è stato Terezin e sono tutte notizie storiche documentate, insomma. Ecco, come hai strutturato poi lo spettacolo? Lo spettacolo è uno spettacolo un po' misto tra narrazione e personaggi. In realtà è una sorta di narrazione prima iniziale. Questo allestimento, questa volta a tre attori, allestimento cioè di iniziale di una spiegazione un po' di quello che è stato, di questi personaggi che in pratica ritornano a vedere Terzi, perché realmente sono stati nascosti i disegni che abbiamo trovato, le poesie furono nascoste nel ghetto all'epoca, prima di quanto fosse stato evacuato. E poi dopo, insomma, e loro, poi ci sono questi personaggi che più o meno raccontano, c'è questo direttore, Raphael Schachter, che decide di mettere in scena il Requiem di Verdi e attraverso l'allestimento di questa opera, che poi andrà in scena realmente, parliamo insomma di quello che è stato l'Olocausto, quindi deportazioni, malattie, gente che viene presa, viene riportata, cioè quello che sono le leggi anche dei nazisti su quanto riguarda, aggirano sostanzialmente le promesse fatte, in realtà le mantengono ma le aggirano, insomma, di quello che era l'atmosfera dell'epoca e il rapporto anche con l'autorità. Senti, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più, pagine Facebook, siti Sì, allora, internet? pagina Facebook, abbiamo Arma Teatro, la pagina Facebook, e poi dopo, vabbè, ci sono comunque, sì, quella è la pagina specifica, insomma. E poi se ho un minuto ci sono le persone che hanno lavorato nello spettacolo, che Certo. quindi sono Massimo Mirani, Ramona Gargano, Marcello Gradina, e poi abbiamo Rocchina Ceglia all'ufficio stampa, Massimo Sugoni come disegno luci, Giampaolo Amico il tecnico audio e luci, e Luigi Imparato che ci ha fatto la grafica. Sono le persone che hanno comunque lavorato a tutto lo spettacolo. Niente, la pagina specifica, beh, poi ci sono comunque altri riferimenti in giro, insomma, ecco. Comunque, questo è. Un'altra curiosità, questo titolo? Questo titolo è perché in realtà questa città venne chiamata il Dono di Hitler in riferimento al discorso del documentario che viene realizzato da Kurt Gerron, che era un attore che ha partecipato anche all'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich, che ha fatto la regia di questo documentario e che è stato divulgato per la Croce Rossa, e quindi venne chiamato il Dono di Hitler perché era in pratica la città, il simbolo che Pietro avrebbe dato agli ebrei. Ovviamente era tutta una cosa allestita per l'occasione, però prese il nome da qua, insomma. Il dono di Hitler, Terezin 1941-1945, testo e regia di Daria Veronese. Daria, un saluto e a risentirci presto.